edizione. E 6 e 13 minuti, ancora una buona giornata. Qualche aggiornamento che arriva da New York riguarda il tema della Siria. A New York si è svolta una accesa riunione sulla Siria nel corso della notte a Palazzo di Vetro, quindi alle Nazioni Unite. Proprio fuori dal Palazzo di Vetro, poco più in là, c'è stata una grande rissa tra siriani che stavano manifestando, alcuni pro e alcuni contro il regime di Assad. Una rissa violenta durante la quale almeno una persona è rimasta ferita, che ha richiesto l'intervento comprensibilmente della polizia. Cosa si è detto all'interno del Palazzo di Vetro? Kofi Annan, che è l'inviato speciale per la Siria, ha detto che la Siria non è come la Libia, non crollerà su se stessa ma esploderà con conseguenze serie su tutta la regione. Al termine della riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, l'inviato Annan ha confermato che il suo piano non è morto, che si sta lavorando alla costituzione di un gruppo di contatto composto da paesi con un'influenza sulla regione che guardino al problema siriano in maniera più distaccata. Di questo gruppo di contatto, secondo Annan, dovrebbe far parte anche l'Iran. È d'accordo la Russia su questo punto, è assolutamente contraria invece, sono assolutamente contrari gli Stati Uniti, e quindi il conflitto si ripete. Vediamo nelle prossime ore quali saranno le notizie dal campo, arrivano sempre nel corso della mattinata, speriamo migliori di quelle dei giorni scorsi. Adesso diamo spazio alla viabilità. Prima edizione. Ed è il momento a questo punto della rassegna stampa, che iniziamo oggi con la Gazzetta dello Sport. Abbiamo sentito poco fa il nostro speciale sugli europei. La Gazzetta dello Sport oggi apre con due belle fotografie, una proprio per gli europei, Polonia-Grecia alle 18, una fotografia con all'interno le foto dei calciatori con inquadrate in delle stelle, Eurostar, questo è il titolo, ma a fianco c'è anche l'altra grande stella di giornata, ovvero la Errani, stella d'Italia, questo è il titolo, quindi affiancato Eurostar e stella d'Italia. Speriamo nel corso della giornata di dare altre buone notizie. Non sono buonissime quelle che invece leggiamo sulle prime pagine di tutti gli altri quotidiani, che si riportano il trionfo della Errani, questa finale al Roland Garros che arriverà, ma la riportano insieme a tante altre meno liete, e quasi tutti titolano su quello di cui vi abbiamo detto nel corso di GR24, ovvero il decreto sviluppo, crescita, lite sui fondi e rinvio. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Slitta il decreto, la Fed sulla crisi dell'euro pronti a difendere gli Stati Uniti, la Cina taglia i tassi, e in Italia invece la ragioneria dice non c'è copertura, scontro con Passera. Se questo è il Corriere della Sera, la Repubblica, nominerai lo strappo di Monti, oggi si decide, slitta il decreto sviluppo, scontro tra il Premier e Passera, il Presidente del Consiglio e i poteri forti ci hanno abbandonato, pressing sul governo per rinviare la scadenza del pagamento dell'IMU. E poi un po' più nel dettaglio leggiamo, giornata di tensioni dentro il governo, slitta il decreto sviluppo tra il Presidente del Consiglio e il Ministro Passera, si consuma un duello, Monti fa un allungo sulle nomine Rai. Oggi in Consiglio dei Ministri si decide, il Premier attacca, i poteri forti ci hanno abbandonato, pressing su Palazzo Chigi per fare slittare la scadenza del pagamento dell'IMU. Il Messaggero, anche qui sviluppo, slitta il decreto, problemi di copertura, vertice su nomine Rai e Authority. In buona evidenza sul Messaggero però anche Brindisi, così ho fatto esplodere la bomba a scuola, la confessione del killer, mistero sul movente e complici a bordo dello yacht dopo l'attentato, perché il presunto attentatore appunto è a uno yacht sul quale si sarebbe poi rifugiato. Brindisi, si cercano i complici, questa è l'apertura della Stampa. I PM, l'assassino di Melissa non ha agito da solo, buio sul movente, ma anche qui Monti abbandonato dai poteri forti, salta il decreto per lo sviluppo, la Fed, l'Unione Europea è in pericolo, Fitch declassa Madrid. Sul Giorno, governo, lite sullo sviluppo, mancano i soldi, il decreto slitta ancora, l'ira di Passera, che ci sto a fare? Il veto è arrivato da Grilli. Europa, nuova bufera sulla Spagna, foto notizia, i segreti del killer, Giovanni Vantaggiato a Brindisi. Libero, siamo al Tramonti. Scontro in Consiglio dei Ministri, affondato il decreto sviluppo, il governo è paralizzato e il Premier attacca i giornali e i poteri forti. Un film già visto, il capolinea è dietro l'angolo. Maurizio Belpietro poi dopo argomenta, sempre sulla prima, Monti ha certificato il fallimento del suo governo e andiamo alla parte che volevamo leggervi. Che cosa ha fatto uscire dai gangheri il nuovo inquilino di Palazzo Chigi al punto di dichiararsi vittima dell'informazione della grande impresa? L'ultima tirata d'orecchia del Corriere della Sera. La direzione è sbagliata e gli editorialisti di Via Solferino commentavano la politica del governo sostenendo che molti provvedimenti vanno nel senso opposto a quello che sarebbe auspicabile e necessario, una sberla che deve aver fatto male al Premier anche perché arriva da un quotidiano di riferimento fino adesso, il giornale Monti nel pallone. Siamo alla paralisi, salta il decreto sviluppo, il Premier e i poteri forti ci hanno abbandonato, finalmente Napolitano in Emilia, ma i terremotati lo fischiano, tutto nello stesso titolo. E poi anche qui centropagina la fotonotizia dedicata al killer di Brindisi, non era solo, abbiamo messo la bomba, il lapsus, oppure davvero dietro a questa dichiarazione si cela la presenza di un complice. La Padania, IMU, tassa vigliacca sugli onesti e i deboli, colpisce gli immobili registrati del nord, grazie a quelli abusivi del sud, fa sconti alle banche, bastona gli anziani all'ospizio e i poliziotti fuori sede. Maroni, una vera indecenza, fossi stato io al Viminale. E intanto scoppia il caos, prima rata, nessuno sa come pagarla. Così la Padania, andiamo all'Unità, ora Monti denuncia i poteri forti, il Premier perso il sostegno di Confindustria e Corsera, sviluppo ancora un rinvio sul decreto, la ragioneria blocca il testo preparato dal ministro Passera. In primo piano sulla Unità anche nel PD e sfida sulle primarie aperte, Bersani in direzione lancerà il patto dei riformisti per il 2013, dubbi tra i democratici sull'ipotesi di consultazioni di coalizione, Renzi dice ci sarò. Al manifesto, giù dai Monti, abbiamo perso l'appoggio dei poteri forti, il Premier parla al congresso delle casse di risparmio, punta il dito contro Confindustria e un grande quotidiano, che sappiamo essere il Corriere della Sera, il governo perde i colpi, la maggioranza scricchiola, oggi i vertici del PDL che fa tremare l'esecutivo sul DDL corruzione e del PD. E poi sempre sul manifesto, Italia dei Valori e SEL pronti alla rottura, primarie con noi o addio. Il Fatto Quotidiano, mollato dai poteri forti, elezioni più vicine, il Premier si sente abbandonato da Confindustria e Corriere della Sera, mentre l'attività del governo si blocca, il decreto sviluppo non si vede, con i partiti nervosi, se l'euro non crolla dopo l'estate si può tornare a votare. Anche qui la confessione del killer fa acqua, si ipotizza un mandante a Brindisi, dubbi sulla ricostruzione di vantaggiato, manca il movente. Queste quindi le prime pagine dei quotidiani della Gazzetta dello Sport, vi abbiamo già detto, recuperiamo però anche Avvenire, si ricomincia, titola così Avvenire, Napolitano in Emilia, se vi dimenticano darò la sveglia, il capo dello Stato ai terremotati, lo Stato c'è, non resterete soli, gli imprenditori dicono no a vincoli eccessivi nella riedificazione dei capannoni. Forse parole inopportune se dette davvero così, visto quello che è accaduto. E poi sempre su Avvenire, bomba di Brindisi, il movente oscuro. E poi fattore famiglia, si può fare senza nuove spese. Questa è la prima pagina di Avvenire. Torniamo sulle... riprendiamo un po' dall'inizio la rassegna stampa. Andiamo al Corriere della Sera, così già tanto citato oggi. Che nelle pagine poi interne, invece di diciamo autocitarsi, sottolinea che Monti non ha fatto nomi nel dire che ci sono alcuni quotidiani che non lo sostengono più come un tempo. I ribaltonisti di memoria corta, qui invece è Massimo Franco, editoriale sulla prima del Corriere. In un'Italia con la memoria corta, selettiva, un po' furbesca, il ricordo del baratro finanziario sul quale il paese era affacciato nel novembre dello scorso anno si è già sbiadito e le difficoltà e i limiti che il governo tecnico di Mario Monti sta incontrando e mostrando tendono a diventare una sorta di schermo dietro il quale nascondere il passato recente. Ci si dimentica che la maggioranza anomala formatasi allora non è la causa ma la conseguenza del fallimento della coalizione di centrodestra e che la decisione di dare vita ad un esperimento difficile richiestoci dall'Europa come polizza di assicurazione a nostro favore fu sofferta insieme inevitabile. I partiti la accettarono e la sostennero con senso di responsabilità perché nessuno era in grado di offrire un'alternativa di stabilità e perché il voto anticipato avrebbe probabilmente inferto un colpo definitivo alla credibilità italiana sia rispetto agli alleati europei che ai mercati finanziari. Il fatto che le sorti della moneta unica siano incerte, come mai è accaduto in questi anni, non capovolge né smentisce il punto di partenza e tende a presentare come pericolose scorciatoie le tentazioni di elezioni a ottobre spuntate in spezzoni del PDL e del PD e non smentite finora con sufficiente convinzione dai rispettivi leader. Non scorciatoie verso la stabilità, ma verso una nuova stagione di incertezza. L'aspetto più inquietante è che affiorano mentre ci si avvicina alla riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno prossimi, quella che dovrà definire il futuro dell'euro e nel nostro piccolo anche il ruolo che l'Italia di Monti è riuscita faticosamente a recuperare presso le altre cancellerie occidentali e la Casa Bianca. Approdare all'appuntamento avendo alle spalle una maggioranza che neppure finge più di voler sostenere il Presidente del Consiglio fino al 2013 sarebbe un'autorete. Ma in gioco non c'è soltanto una questione di immagine e di proiezione internazionale. Viene da chiedersi quale tipo di Parlamento emergerebbe da una consultazione ravvicinata e traumatica. È difficile non vedere che si arriverebbe alle urne per la rinuncia soprattutto dei partiti maggiori ad assumersi fino in fondo la responsabilità di alcune riforme definite ineludibili proprio da loro. Non solo, una delle ragioni per le quali si asseconderebbe la deriva elettorale, si dice sottovoce, è quella di impedire che si gonfi la bolla dei partiti estremisti. La miopia di un argomento del genere tuttavia è evidente. Certificare un'interruzione della legislatura in una fase cruciale della vita economica e istituzionale aggiungerebbe fallimento a fallimento e travolgerebbe l'argine che comunque Monti ha eretto intorno ai conti pubblici italiani. Il pesante declassamento di ieri della Spagna è un monito. Il governo di Madrid è stato appena legittimato da un voto popolare. Attenzione dunque a non trasformare il vuoto politico di oggi in una voragine che chiunque potrebbe sfruttare nel modo più imprevedibile. Nessuno può pensare di sottrarsi a un compito duro che richiede pazienza, umiltà e produce impopolarità. Vale per Monti, per i suoi ministri e ancor di più per i partiti che lo sostengono. E così Massimo Franco sul Corriere della Sera, tanto chiamato in causa in queste ultime ore dopo che Monti appunto ha affermato che gli manca il sostegno dei poteri forti, tra cui quello di quotidiani come il Corriere della Sera stesso. E insomma Massimo Franco in questo non è diretto ma è abbastanza preciso nel rispondere. Andiamo per concludere, Massimo Gramellini, gli occhi di Sara, non ho parole, esala Sara Errani, un attimo dopo essersi sdraiata sulla polvere rossa del Roland Garros con la certezza di essersi arrampicata sopra un sogno, finalista in singolare e in doppio nel torneo di tennis in terra battuta più importante del mondo. Non avendone neanche noi di parole, ci atteniamo strenuamente ai gesti che contano molto di più. Per esempio il mulinare inesorabile delle sue gambette strutturate, gambe da autentico donnino romagnolo. Questa genia di femmine coraggiose che sanno godere e soffrire con la stessa sfrontatezza. E poi gli occhi di Sara, inquadrati dalla telecamera mentre aspetta il servizio dell'avversaria. Non sono occhi da tigre serrati a fessura in una smorfia di risolutezza e neppure occhi da valchiria dilatati dalla tensione. Sono laghi placidi e profondi, gli occhi della vera passione, che non è un soprassalto isterico di adrenalina, ma una lenta e solenne espansione di energia che consente a una ragazza minuta di domare furenti gigantesse. Se ne vedono sempre meno in giro di occhi così. La disillusione, il vittimismo, stati d'animo giustificabili ma ferali hanno divorato la nostra passione restituendoci sguardi slombati, lividi, arresi. In guerra col mondo eppure incapaci di inquadrare qualsiasi obiettivo. Non bastano le gesta di una campionessa risoluta a cambiare i gesti degli umiliati e degli offesi che bolleranno anche queste righe come esercizio di retorica vuota, ma almeno possono fungere da ripasso, aiutandoci a ricordare che è solo con quegli occhi che si vive la vita vera. Così concludiamo la nostra rassegna stampa, spazio alla pubblicità e poi ci ritroviamo per fare il punto sulle notizie del giorno. Prima edizione. Sono le 6:35 di venerdì 8 giugno, tra l'altro il giorno in cui si concludono le scuole, almeno per quanto riguarda la Lombardia, molti genitori quindi da domani avranno altri problemi rispetto a quello della scuola, almeno uno lo togliamo. Torniamo sull'argomento con il quale abbiamo aperto i nostri giornali radio, diamo il buongiorno a Valeria De Rosa. Valeria? Buongiorno a te Laura. Allora, decreto rinviato, non si sa quando, decreto sviluppo. Sì, non si sa quando, forse, questi sono solo ovviamente voci di corridoio, potrebbe rispuntare oggi, ma è un'ipotesi davvero molto remota che possa appunto riapparire in Consiglio dei Ministri, altrimenti bisognerà aspettare la prossima settimana. Diciamo che intorno a questo rinvio ci sono delle diverse componenti, sicuramente c'è una causa che è quella strutturale, che è di fondo e che accompagna quasi tutti i provvedimenti di quasi tutti i governi, che è quello delle risorse economiche, perché questo decreto sviluppo aveva diverse misure per le imprese, come ad esempio il credito d'imposta per le assunzioni under 35 e under 30 per laureati e per persone in possesso di un dottorato, e aveva poi anche tutta un'altra serie di misure, ad esempio i mini bond per le piccole imprese, e poi ancora in tema di infrastrutture incentivi fiscali a favore dei project bond, e poi per l'edilizia o anche bonus per le ristrutturazioni, il bonus energia, uno sconto IMU per le nuove costruzioni, quindi diciamo che il nodo delle risorse era un nodo importante. Ma ieri sono successe varie cose. Intanto, quando è arrivato il ministro Passera, che solitamente non è una persona che si irrita facilmente e non lo fa in pubblico, pare che invece questa volta pare non che si invece, sia retto. Esatto, questa volta ha battuto i pugni sul tavolo e abbia addirittura detto: che cosa ci sto a fare io che sono un ministro per la crescita se non posso fare nemmeno un decreto o una misura per la crescita, perché tutto sommato mancavano qualcosa come 100-120 milioni, e Passera avrebbe detto nell'architettura generale di questo decreto forse si poteva anche cercare di trovare queste risorse, che non erano poi così ampie rispetto appunto a tutto il decreto, e quindi ha puntato il dito contro il ragioniere dello Stato Canzio e il capo di gabinetto del Tesoro, che è Vincenzo Fortunato, perché sono poi loro le persone che tecnicamente devono andare alla ricerca minuziosa di tutte le coperture. E poi c'è stato un altro piccolo giallo, perché il testo del decreto era pronto mercoledì sera. Per farlo presentare in Consiglio dei Ministri e esaminare, avrebbe dovuto essere inviato a tutti i ministri via mail, via posta elettronica, prima del Consiglio dei Ministri, e di questo si doveva occupare il sottosegretario a Palazzo Chigi, Catricalà, che invece non l'ha fatto e ha fatto trovare il testo sul tavolo in modalità cartacea. A quel punto non era più possibile per i ministri esaminare il testo, e quindi non è stato posto proprio all'ordine del giorno, e quindi Passera si è ulteriormente arrabbiato. Non gli è andata una ieri. Esatto, sì, ieri devo dire nemmeno che proprio non è andata, no. Grazie Valeria De Rosa per gli aggiornamenti. Valeria, la ritroveremo sempre su questo tema nel corso di GR 24 alle 7. Di questi temi, di queste tristezze anche economiche, sicuramente si saranno dimenticati per un po' invece ieri sera tutti coloro che hanno assistito al concerto di Bruce Springsteen a Milano, vero Adriana Fracchia? Buongiorno. Sì, buongiorno. Quello di ieri sera di Bruce Springsteen allo Stadio Mezza di Milano è stato decisamente uno degli appuntamenti musicali più attesi d'inizio estate. Il boss era per la sua quarta volta a San Siro prima di fare rotta verso Firenze, lo ricordiamo il 10 giugno, e poi il giorno successivo a Trieste. Ha aperto sulle note di C'era una volta in America di Sergio Leone nella sua prima tappa italiana di Wrecking Ball Tour, per raccontare un'America che era un tempo una terra promessa e forse oggi non lo è più. Il cantautore rock del New Jersey continua a raccontare la gente comune del suo paese e da grande cantastorie non ha mai perso l'ispirazione. Oltre ai suoi successi di sempre, da We Take Care of Our Own a Badlands a Death to My Hometown, c'erano ben 28 brani in scaletta per la serata, per un concerto di tre ore, durato tre ore. Ha cantato poi anche le canzoni nuove di fronte a 60.000 fan in delirio che erano arrivati allo stadio da tutta Italia. Il Wrecking Ball Tour è partito, lo ricordiamo, da Siviglia il 13 maggio scorso e vede l'autore di Born to Run accompagnato dalla sempre inossidabile E Street Band, che annovera ora fra i suoi membri anche Jack Clemons, il nipote dello scomparso Clarence Clemons, che era una delle colonne del gruppo. E per l'occasione nel Tempio Milanese del Rock si sono potuti alzare anche i Decibel, che per il concerto hanno raggiunto quota 82 con buona pace dei comitati di quartiere che negli scorsi anni avevano dato battaglia. Diciamo che in cambio gli è stata data la possibilità, insomma, di chiudere il concerto prima, iniziando prima, ecco, quindi se è stato più rumore, il concerto è iniziato prima e quindi le persone avranno potuto riposare sempre che gli spettatori uscendo non abbiano esagerato, diciamo, ecco. Comunque è un evento indimenticabile come sempre per chi ha potuto, ha avuto la fortuna di trovare i biglietti di partecipare. Tu non c'eri, direi, Adriana, se sei purtroppo qua stamattina no. Così presto, purtroppo non potevi no. Essere ieri sera ad ascoltare Bruce Springsteen. Grazie ad Adriana Fracchia, adesso le informazioni sul traffico, ci ritroviamo poco dopo. Edizione. L'Emilia Romagna non sarà lasciata sola, quei cittadini, quelle imprese, quei lavoratori, quei comuni, quei sindaci non sono soli, stiamo lavorando e daremo le risposte che un paese solidale e grande come l'Italia deve sapere dare. Come ogni mattina vi facciamo riascoltare, anche per ricordarsele, le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani. Parliamo di terremoto in questa ultima parte di prima edizione. Nella notte ci sono state altre 8 scosse nella zona già colpita dagli eventi sismici del 20 di maggio. Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, delle scosse avvenute tra mezzanotte e le 5.50 di oggi, la più forte è stata alle 5.28 del mattino, con magnitudo 2.9 e epicentro in prossimità dei comuni mantovani di Gonzaga e Moglia, di quelli reggiani di Fabbrico, Reggiolo e Rolo e di quelli modenesi di Concordia sulla Secchia, Novi di Modena e San Possidonio. Sono gli stessi nomi che leggiamo ormai purtroppo quasi ogni mattina. Come di consueto ci colleghiamo con i volontari alpini che sono sul territorio. Oggi con noi c'è Ivan Marchetti, colonna mobile nazionale. Buongiorno. Buongiorno. Lei è in collegamento con noi da Cento, quindi provincia di Ferrara, vero? Esatto, il campo di Cento. Il campo di Cento quante persone ospita? Attualmente 361. 361. Ieri si era detto che doveva venire il capo dello Stato, mi dicono poi non sia venuto a Cento, è così, corretto? Esatto. Ci siete rimasti un po' male? Come, scusi? Siete rimasti un po' male, magari l'aspettavate, vi eravate preparati? Ma qui stiamo facendo un grandissimo lavoro, noi eravamo preparati per ospitare ovviamente il Presidente della Repubblica, ma se non è venuto sicuramente aveva altre cose da fare, sicuramente i suoi impegni, e quindi noi andiamo avanti col nostro lavoro. Il vostro lavoro in cosa consiste lì a Cento? Attualmente stiamo facendo una cernita di alcune persone che sono sfollate al palazzetto dello sport, che è qui adiacente al campo sportivo dove abbiamo la tendopoli, e un ampliamento appunto della tendopoli per lo sfollamento delle persone che hanno estremo bisogno e che sono all'interno del palazzetto dello sport. Quindi state cercando di capire chi è più o meno in difficoltà, insomma, e quindi chi deve essere all'interno del palazzetto dello sport, proprio per poterli ospitare qui nella tendopoli e lì in una situazione migliore in tutti i sensi. Senta, lei aveva già esperienze di questo tipo, di volontariato in luoghi colpiti da terremoto? Sì, affermativo, ero all'Aquila, San Demetrio dei Nevestini durante il terremoto che appunto ha colpito l'Abruzzo. Quindi ha potuto riutilizzare, diciamo, l'esperienza già maturata altrove lì, quindi modi di magari di compiere certe azioni più efficaci di altri. Certo, siamo quasi tutti, siamo praticamente tutti i 60 volontari che hanno già avuto altre esperienze, e soprattutto nell'ultimo terremoto dell'Abruzzo, quindi sono tutti abbastanza veterani della situazione. Certo, e la situazione, per concludere, lì a Cento, noi abbiamo letto essere una delle località più colpite. Lei, diciamo, visivamente, quando è arrivato, che impressione ne ha tratto? Beh, il centro di Cento è colpito, si vede a vista d'occhio. Ovviamente il nostro lavoro è dare sicurezza e dare alloggio e tutto quello che riguarda cercare di far ricostruire una vita a queste persone, quindi abbiamo poco da guardarci in giro, abbiamo tanto da lavorare. Allora, buon lavoro, buona giornata. La giornata per voi è già iniziata, come del resto per noi. Appuntamento alla prossima settimana con appunto i volontari che stanno lavorando sul campo per il terremoto. Abbiamo sentito Ivan Marchetti, colonna mobile nazionale degli Alpini. Sono le 6:50, prima edizione si conclude qui. Diego Rovelli in assistenza, Peter Bescapè in regia. Ci ritroviamo alle 6:58 con il giornale radio. Buona giornata.